Un cavaliere nella sua armatura. 14 agosto. Vidi in chiesa davanti all'altare con la sua armatura stava in ginocchio. Dapprima credetti fosse un'illusione. Per poter osservarlo meglio, uscì dall'oratorio passando accanto a lui. Egli si lasciò osservare per un certo tempo e poi disparve. Gi a lungo da me, è spaventosamente inquieto. 17 agosto. Gi di nuovo qui, adesso sta più attento quando prego. 19 agosto. E di nuovo due volte nella notte. Adesso egli picchia quando sono nell'oratorio, ma ogni volta che vado alla porta per vedere non c'è più niente. 20 agosto. Vidi di nuovo il cavaliere in chiesa in piedi vicino all'altare, egli ha la statura di un gigante. Forse è l'uomo, che è sepolto nel coro della chiesa, che fu trovato quando si fece la nuova pavimentazione e che aveva uno scheletro eccezionalmente grande. 23 agosto. Passai una notte molto scomoda. Sapevo che G era qui ma la luce elettrica non funzionò. Io lo sentivo e ne avevo la sensazione della sua presenza, ma non lo potei vedere. Fu una cosa tremendamente angosciosa. Non ebbi il coraggio di alzarmi per andarmi a prendere dei fiammiferi. Dopo circa un'ora capii che se ne era andato, e questo più per intuizione che per averlo udito. È una cosa del tutto nuova anche questa. 24 agosto. Riprende il picchiare alla porta dell'oratorio. Quando guardo fuori non c'è nulla. Appena rientro il rumore riprende, una cosa che disturba molto, perché almeno li vorrei potermene stare in pace. Di qui a lungo, durante le litanie accompagnato con attenzione. Era un tantino meglio, non più così scuro. 30 agosto. Sempre la stessa cosa. Il rumore all'oratorio diventa spesso insopportabile, chiamare e picchiare. Il cavaliere lo si può vedere quasi tutti i giorni. All'ospedale vidi in cappella Suore Davige. Nota. Vala un piccolo ospedale, dove Davige Ostertag fu superiora. 2 settembre. Quando tornai dal giardino, vidi G in piedi alla finestra che mi guardava dietro. Fu una cosa che mi turbò in modo nuovo ed avevo un po' di paura ad entrare in camera mia, per fortuna però era vuota. 6 settembre. Finalmente G parla. Io, dimmi una buona volta che cosa vuoi da me? Lui, aiuto. Io, perché devi patire? Lui, peccati non espiati. Io, ma è perché vieni proprio da me? Lui, perché la strada per venire da te è libera. Io, come è libera? Purtroppo non ebbi una risposta altrimenti io avrei potuto forse ostruire questa strada. 7 settembre. Vidi G davanti a casa sua. Adesso a guardarlo non mette più tanto spavento, egli diventa sempre più benevolo. Non so spiegarmi perché, dal momento che posso fare così poco per lui. Ritiro ciò che scrissi il giorno 6, non voglio ostruirgli la strada anche se lo potessi. Sarebbe tremendamente egoistico, anzi devo essere felice se lo posso aiutare un pochino.